prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Da un'emergenza all'altra, la settimana scorsa parlavamo di profughi, questa settimana dobbiamo metterli purtroppo in secondo piano perché c'è stato il gravissimo sisma in Nepal. Ben ritrovati ancora da Mirko Cavallin. Rilanciamo anche in questo spazio prossimo tuo, e oggi più che mai è il caso di parlare di prossimo con le vittime appunto del sisma. Rilanciamo gli appelli della Caritas. La forma di aiuto più utile al momento è la raccolta di fondi a sostegno degli interventi della rete Caritas, che in loco c'è la Caritas Nepal con tutta la Caritas Internationalis già attiva, che raccolgono tutte le offerte che arrivano dalle Caritas nazionali e dalle Caritas diocesane. È inutile raccogliere beni materiali, cioè non servono, e perché è un disagio riuscire a portarli in Nepal, dove non ci sono più strade, non ci sono comunicazioni, sono difficili anche i voli in partenza e in arrivo. Anche i sopravvissuti sappiamo che hanno avuto dei problemi a rientrare, quindi non servono beni materiali, ma tramite il denaro, tramite offerte anche molto limitate con pochi euro, si possono dare beni materiali che arrivano tramite la rete Caritas direttamente a chi ne ha bisogno. Attenzione, un altro appello che facciamo subito, lo fa la Caritas e lo rilanciamo, attenzione a valutare eventuali richieste di aiuto, soprattutto se rivolte ad aree al di fuori dei contesti più colpiti. Infatti il terremoto è stato percepito in una vasta area tra Nepal, India del Nord, Bangladesh, Tibet e Pakistan, però la gran parte del territorio devastato è quella del Nepal. Sappiamo che la conta delle vittime è ancora in corso, 8 milioni di persone colpite, tra cui 2 milioni di bambini. Una parte limitata del nord-est dell'India è stata colpita, e molto più lievemente in Bangladesh, Tibet e Pakistan. Il resto dell'India, quindi la gran parte dell'India, non ha subito alcun danno dal terremoto. In India appunto i danni sono stati concentrati nel Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal e in misura minore in Sikkim, Assam, Uttarakhand, Delhi, Punjab e Haryana. Quindi se trovate degli appelli che riguardano terremoto in India, ecco, cominciate a dubitare e verificate bene. Il terremoto è in Nepal prevalentemente, con queste aree periferiche appunto colpite dal sisma. Segnaliamo, e lo ricordiamo ancora tramite la Caritas italiana, che già sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro dalla CEI, 10.000 tende, 3.000 teloni già distribuiti. È il peggior terremoto di cui si abbia mai avuto esperienza, ha detto il direttore di Caritas Nepal, padre Pius Perumana, gesuita. Moltissimi danni fisici, moltissimi edifici crollati e molti altri ovviamente inagibili. Il terremoto si è verificato di giorno durante una festività, quindi molte persone erano all'aperto. Questa, diciamo, è stata una fortuna, è stato provvidenziale che accadesse così. Le cifre, allora, quanto può servire, dato che è inutile, anzi è controproducente mandare materiale, ci pensa la Caritas con i soldi. 25 euro possono bastare per fornire alimenti essiccati per una famiglia per un mese intero. 10 euro servono per dare acqua ad una famiglia per una settimana, e sapete che l'acqua è uno dei problemi maggiori, igienico oltre che alimentare, perché tutte le condutture idriche sono andate praticamente distrutte. Oppure con 10 euro si può fornire una tenda per ospitare tre famiglie. Sempre con 10 euro 30 kg di riso, che bastano a sfamare una famiglia per un mese. Ovviamente il supporto arriva tramite la Caritas e tutte le altre organizzazioni internazionali presenti nel territorio. Tutte le offerte, tutto ciò che ciascuno vorrà e potrà dare, viene raccolto appunto tramite La Caritas può essere quella parrocchiale, se avete dei riferimenti, oppure le Caritas vicariali con gli sportelli, ad esempio attivi in diversi vicariati della diocesi di Padova, anche quelle di altre diocesi, se ci ascoltate da altre diocesi, oppure il riferimento sono le Caritas diocesane. Quindi questo è l'appello che rilanciamo alle offerte in denaro. Sappiamo che anche molti si sono attivati canali televisivi e altre organizzazioni anche con gli SMS solidali da 1 o da 2 euro. Dunque questo è quello che è necessario e utile fare adesso, appunto, offerte in denaro che tramite la Caritas possono diventare aiuto concreto alle persone che sono sopravvissute. Sappiamo ormai dopo 5 giorni dal sisma sono in notevolissima difficoltà. Un'altra notizia che arriva dal mondo della Caritas, se rilanciamo volentieri poi la riprenderemo nei prossimi appuntamenti, è il premio in memoria dei 2 sacerdoti padovani che a Caritas hanno dato molto negli anni 70, 80 e 90, Don Giovanni Nervo e Don Giuseppe Pasini. Pasini scomparso poco più di un mese fa e Nervo esattamente 2 anni prima, il 21 marzo 2013 e 2015. L'8 maggio a Padova, nell'aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto, alle 17 sarà presentato il premio Teologia della Carità e della Solidarietà, intitolato proprio alla memoria di Don Nervo e Don Pasini. Il premio è promosso da Caritas Italiana, Segreteria della CEI, Diocesi di Padova e Fondazione Zancan. Ci sarà il saluto dal presidente della Caritas Italiana, l'arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, il direttore di Caritas, Don Francesco Soddu, l'economo della CEI, Don Rocco Pennacchio, Monsignor Paolo Doni, vicario generale della Diocesi di Padova, Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, e Monsignor Roberto Tommasi, preside della Facoltà Teologica del Triveneto. Ci sarà una rivisitazione dei profili di Monsignor Nervo e Monsignor Benvenu Pasini con un video e poi la relazione di Domenico Rosati. A seguire Don Andrea Toniolo, responsabile del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e Scienze Religiose della CEI, illustrerà il bando del Premio di Teologia della Carità e Solidarietà. Il premio consisterà in 2 borse di studio e ricerca biennali post laurea da 30.000 euro ciascuna. Tutti i dettagli si trovano sul sito caritasitaliana.it, ma avremo modo di parlarne appunto anche nei prossimi appuntamenti dopo la presentazione del premio, abbiamo detto venerdì 8 maggio alle 17 nella Facoltà Teologica del Triveneto. Appuntamento fra 7 giorni, riprenderemo, speriamo che non ci siano altri disastri umanitari, riprenderemo il nostro viaggio all'interno dei vicariati e delle iniziative della Caritas di Padova. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.